Della visione ammetto il fatto che ho pianto, vedendo noi due giocarci bambini biondi che eravamo, ben vestiti coi capelli curati dal pettine feroce, della mamma avevi occhi tondi di stupore, attaccati subito sotto la fronte bombata, tu testa a pera, io faccia tonda di luna, accigliata e scorbutica ti sfotticchiavo perché parlavi straniero. Era un modo strano di giocare alle anime belle quei due bambini estranei che giocavano senza tanti preamboli, come fanno sempre i bambini quando costretti circostanziano un gioco seri seri improvvisando movenze rituali. Nessuno sorrideva in quella breve visione, ma i nostri vestiti chiarivano. Eravamo rivestiti a festa dopo il bagnetto serale e aspettavamo, temendolo, il buio che ci strappasse ai grandi. Tu portavi una camicia da omino e i pantaloncini corti, io un vestitino di piqué con le maniche a sbuffo, come si usava, di buona famiglia negli anni Sessanta, quando eravamo tutti americani. Poi siamo spariti entrambi. Devono averci richiamati i genitori da due continenti. Ho visto deserto il marciapiedi su cui eravamo. Ho visto deserto il marciapiedi su cui ci eravamo incontrati. Per caso, puliti, stirati. Avevamo la pelle molto rosa, questo colore così difficile da sopportare. E niente roseo finale in quella visione severa. Parlavamo, come tutti i bambini, una lingua aliena, altera, lo spaccato di cielo che dagli occhi dilaga.